Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Il lavoro creativo, il lavoro artistico è un lavoro a tutti gli effetti, solo che quest'anno ha una valenza 10 volte maggiore, ancora più forte rispetto al solito, perché come sappiamo in tempi di pandemia quasi tutti i lavori artistici hanno avuto dei ridimensionamenti o degli stop completi. Abbiamo visto del resto l'importanza dell'arte e dell'intrattenimento durante questa quarantena passata. E allora perché qualcuno continua a pensare fare musica, scrivere, fare film, disegnare fumetti, fare arte, oppure anche la fotografia, perché continuano a pensare che siano hobbistica e non lavori? Ieri, devo dire, abbiamo registrato un grande successo di attenzione di pubblico, di numero di persone che hanno partecipato alla trasmissione sulla nostra domanda dove fosse il paese reale. Sì, perché molte volte ci si nasconde dietro delle parole di passo, dei luoghi comuni accreditati, dei termini che sono usurati nell'abuso che viene fatto, soprattutto nella politica più demagogica, e ci si rende conto che se poi ci facciamo una domanda più approfondita ci rendiamo conto che in realtà Il paese reale è qualcosa di molto difficile da definire. Non esiste un concetto astratto di paese reale. E come pure il termine resilienza, che è un termine molto abusato, molto usato, molto di moda, che è un termine che viene preso comunque da particolari test che si fanno sui metalli per vedere la loro capacità di resistere ai botti e colpi, che venga oggi portato come termine simbolico del nostro rilancio, un po' ci pensiamo, ma scusate, ma perché noi dobbiamo essere quelli che più calci prendono e più resistono, poi alla fine si spezzano? Usiamo altri termini. Altro termine che molte volte è stato un po' abusato è quello di creatività. Il termine creatività è stato attribuito in realtà in vasti spazi della lettura sociale a situazioni, termini, persone, attività che nulla avevano di creativo, anzi piuttosto standardizzate. Ma la figura del creativo ha assunto, come l'ha assunto il radical chic, come l'ha assunto il buonista, come l'ha assunto tutta una serie di figure che hanno una loro matrice fondamentale, primordiale, su cui si può discutere, ma che oggi continuare a impugnarle come icone che frenerebbero quella che è la volontà del popolo, lo spirito generale di rinascita, la voce delle persone qualsiasi, è molto sbagliato. Nulla a che fare la creatività con il creativo come figura macchiettistica. E molto a che fare invece la creatività, l'espressione artistica, l'ingegno legato a oggetti, accessori, forme di vita che escono fuori da quella che è una vita austera e normale, con quella che è la rinascita del nostro paese. Viene a pensare che oggi è molto più facile, è giusto senz'altro, impugnare come testimoni di una crisi generale che tutti stiamo vivendo, persone che operano in settori che molto da vicino hanno, anche come immagine emotiva, più l'idea della fatica, del lavoro, dell'impegno, del sacrificio. Ma vorrei un attimo riflettere oggi, prendendomene tutte le responsabilità e tutto il peso che ciò potrebbe comportare nel giudizio che mi ascolta, e vorrei portarvi a riflettere che una parte importante del successo del nostro paese, del marchio Italia, visto che tutti ci teniamo a mettere le mascherine tricolore, a mettere la bandiera tricolore accanto al nostro status nei social network, a proclamare l'italianità ad ogni peso spinto. Beh, l'Italia, nella sua fase di maggior fortuna perlomeno per come ci guardano i paesi esteri, proprio legata alla genialità, alla creatività, ad oggetti che nulla hanno a che fare con i mattoni, con le sacchette di cemento, con le barre tornite di acciaio, ma hanno a che fare con qualcosa che vi farà fastidio ascoltare, con oggetti di lusso, oggetti d'arte, oggetti ricercati, oggetti, accessori e simboli di vita che in realtà allietano, arricchiscono le vite di persone che hanno una grande disponibilità economica. Ora, tutto questo non deve essere visto con un senso propriamente populista di qualcosa che infastidisce, urta, che non ci dovrebbe essere. Beh, è parte della nostra possibilità di risollevarci e di riuscire a superare un momento sicuramente molto critico, e anche nell'incentivare questo tipo di settore e anche per rilanciarsi in questo settore. Avete sentito, era il canale YouTube di Alessandro Birola che diceva che i lavori creativi e artistici sono bistrattati, bisogna quasi vergognarsi, come tu fai l'artista, non fatichi, non fai niente, non vedo il sudore sulla tua fronte. Ecco, rendetevi conto che in realtà l'arte, la creatività, il mestiere di creare oggetti belli, oggetti che piacciono, oggetti che abbiano anche un loro giusto valore di mercato, alto valore di mercato, fa parte della nostra possibilità di rinascita. Quindi 800240024, oggi mi rivolgono a tutti quelli che in qualche maniera hanno a che fare con questo tipo di settore. Pensano, immaginano, vendono, hanno attività legate a oggetti che fanno parte della sfera del bello, della sfera che potremmo pensare che appartenga alla dimensione del superfluo, ma anche chi investe nel superfluo, anche chi lavora nel superfluo, ha una sua importanza vitale nel nostro paese. E di questo oggi vogliamo parlare. Nei gruppi, per esempio, di grafica, no? Capita sempre che arrivi il solito tizio che ti chiede di fare il lavoro complicatissimo, ma te lo vuole pagare 5 euro. E quindi c'è un po' questa cosa dello svilimento del lavoro, perché si dà per scontato che comunque il mio cugino sa usare Photoshop e quindi lo sa fare pure lui, allora che cosa ti pago a fare? Chi non ha idea di come funzioni, è normale che si possa trovare un po' spiazzato, posso dire, ma 15 euro per una caricatura, capirai che ci vuole. Allora, molte persone che lavorano con l'illustrazione, col fumetto, col disegno, con veramente tutto ciò che c'è attorno a questo universo di creativo, spesso ha conseguito una laurea, ha conseguito un diploma accademico. Se io per fare una caricatura ci metto 3 ore, io mi aspetto di guadagnare minimo 30-40 euro, perché poi ci devo anche pagare le tasse, che sono più o meno il 30%. Questa è una ragazza, una disegnatrice, una cartoonist, che si lamenta del fatto che il suo lavoro creativo venga bistrattato. Le viene proposto un lavoro, un'attività di tipo grafico, di tipo illustrativo, creare un brand, e gli dicono: vabbè, ma perché mi chiedi questi soldi? Mio cugino sa usare Photoshop, può farmelo anche lui. Ecco, la differenza fra il cugino che sa usare Photoshop e una ragazza che ha studiato, si è applicata, approfondito, si informa e per dare un suo contributo al mondo del design è fondamentale. Chi non la capisce è un passo indietro e fa stare tutti un passo indietro. Questa mattina mi assiste da Milano Pietro Lacorte, da Roma Alessandro Chiappini, che è collocato in via Monte Napoleone. Si è messo nelle nostre possibilità, trasmettendo ognuno da casa, abbiamo possibilità di mettere nello sfondo della nostra collocazione quello che vogliamo. Chiappini, che dallo studio di Roma, io sto a casa come sempre vi racconto, ha messo via Monte Napoleone, la via della moda, la via del lusso, su cui hanno fatto anche film dando un'accezione negativa a questo. Ma lusso, moda, accessori importanti determinano anche una grossa fetta di lavoro, e di questo vorrei parlare oggi, senza paura di toccare argomenti che possono sembrare poco usabili dal punto di vista del consenso. E oggi, con i problemi che abbiamo, dobbiamo fare la spesa e ci parlate del lusso. Il fatto che esista un mercato del lusso fa sì che molti possano fare la spesa, anche persone semplici. Non è detto chi lavora nel lusso, chi progetta il lusso, chi immagina il lusso, chi appaga, chi ha questo lecito desiderio di circondarsi di cose belle e anche la possibilità di poterlo fare, non sia una persona che vive nel cosiddetto paese reale, quello di cui ieri abbiamo cercato disperatamente di mettere un profilo percepibile a tutti. Nicoletta Polla Mattiotti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. E grazie. Ecco, oggi mi faccio aiutare da una collega che ne sa più di me, perché io ho questa intuizione, questa idea, che parlare di queste cose sembri quasi qualcosa in questo momento è meglio non toccarle, non parlarle. Nicoletta è la direttrice, oltre ad essere una cara amica, di How to Spend It, che è la rivista del lusso e lifestyle del gruppo del Sole 24 Ore. Oggi esce con una nuova grafica, con una piattaforma crossmediale, insomma si rilancia, ma soprattutto apre un dibattito fra tutte le persone che lavorano in questo settore su come rilanciare questo settore. Ci riesci, Nicoletta, a far capire a chi ci ascolta quanto questo settore non sia soltanto qualcosa che appartenga a un'elite di pochi privilegiati, ma alla base, alla radice, la scaturigine di tutto questo sia una possibilità di lavoro, di impegno e soprattutto di prestigio nazionale verso l'estero per tante persone? Grazie Gianluca, io ti ringrazio moltissimo di questa premessa che tu hai fatto, perché appunto in realtà la parola lusso è una parola difficile, infatti forse io preferisco davvero pensare al bello, no? E a questa cultura del fare che peraltro è molto italiana, e quello che mi piace sottolineare è che soltanto da noi, soltanto in Italia esistono tuttora certi tipi di competenza, che sono proprio certi tipi di competenza di artigianalità, di manualità e di ingegno unito al fatto umano, che sono quelle che rendono appunto il marchio Italia di cui tu dicevi qualcosa di unico, che tuttora ci invidia il mondo, ed è su questo secondo me che bisogna far leva per riprendere, ma non far leva teorica, diciamo così, ma invece proprio far leva su questa capacità, che è una caratteristica storica, mi verrebbe da dire, dell'Italia, e che va coltivata e rilanciata, perché questa frase abusata in mezzo a tutte le altre che tu hai citato dell'importanza del Made in Italy, parlare di Made in Italy tuttora è evocativo di un sogno, nonostante tutto quello che è successo e tutti i problemi che ha il nostro paese. Riuscire a riattirare su questo sogno investimenti stranieri, riuscire a riattirare turisti, significa appunto giocarci una parte centrale della nostra ripresa. Allora, vediamo se ho capito bene, Nicoletta. Sono materie che mastico poco, ma non perché a me non piaccia il bello e il lusso, ma perché sono un cialtrone di natura e quindi penso altre cose. Essere fabbricatori della materia prima che compone i sogni di chi se li può permettere fa parte, diciamo, delle nostre capacità più peculiari, più riconosciute, sulle quali ancora perlomeno nessuno lo mette in discussione. Esattamente, non solo, se prendiamo un settore gigantesco per noi e per il nostro PIL, perché è la seconda voce del PIL italiano, la moda, che appunto apparentemente sembra qualcosa di superfluo, come tu evocavi. Di cui possiamo fare a meno, in questi tempi viviamo l'austerità, non è così. Non è così, perché sia a livello occupazionale sia a livello proprio di produzione è centrale proprio per l'economia italiana, e siamo tuttora l'unico paese che ha l'intera filiera, e quando dico intera filiera non è soltanto quello che poi sfila in passerella in 5 minuti pare bruciato, ma l'artigiano che fa il bottone, l'artigiano che fa quel tipo particolarissimo di lavorazione di pelle che solo in Italia si fa, e per cui tuttora i grandi brand esteri, se hanno bisogno di quel tipo particolare di lavorazione, vengono da noi. Quella capacità appunto che si tramanda addirittura in piccolissime botteghe di padre in figlio. Ci sono delle lavorazioni per esempio meravigliose nel mondo degli orologi, che è un mondo appunto lussuosissimo, dove il padre ha insegnato al figlio a fare quel particolare tipo di rosa incisa che solo lui sa fare. Sarà utile, sarà superfluo, dà da mangiare a una famiglia, e di lì in avanti c'è tutta la filiera della produzione. Questa pruderia, diciamo così, nei confronti del lusso, io la trovo sbagliata per questo, perché il lusso è bellezza. Nessuno di noi può permettersi la Cappella Sistina, ma viva Dio che ce l'abbiamo, e che quando riapriranno i voli e le frontiere ci saranno di nuovo frotte di turisti che fanno la coda per vederla. Adesso un po' è chiaro che è molto più facile e demagogico appoggiare l'orgoglio nazionale, è giusto, ci anche quello, sulla salamella, sulla caciotta, sul salto in bocca alla romana, perché tutti pensano che sia un bene fruibile da un maggior numero di persone, quindi si può far leva sull'orgoglio nazionale, su qualcosa che tutti conoscono. Però vorrei far riflettere quello che ha detto Nicoletta Pollamattiotto: se il secondo, la seconda voce del nostro PIL nazionale non è proprio qualcosa da disprezzare, e me lo dimostra, visto che io ho questa capacità e possibilità e grande privilegio di avere un immediato feedback, una risposta immediata di quello che è il sentire nazionale con la fetta di pubblico in questo momento mi ascolta, faccio sentire a Nicoletta subito le prime telefonate che danno ragione a quello che stiamo dicendo. Alessandro da Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Io devo rispecchiare quelle che sono state le parole della dottoressa dette poc'anzi. Io sono la seconda generazione di una famiglia di antiquari e di restauratori. E negli ultimi anni abbiamo visto, non so se dirla una caduta o comunque una mancanza anche di cultura da parte a livello della società nell'avvicinarsi al nostro settore. Cioè, quando io ero ragazzino praticamente vedevo mio padre con i clienti che aveva di fronte un privato, un cliente che dovevi stare molto attento anche a quello che si diceva, perché c'era una persona molto acculturata e attenta a quello che tu proponevi. Ecco, sai dirmi, Alessandro, una ragione per cui la standardizzazione dei prodotti diciamo che danno prestigio, cioè i marchi che può chiunque acquistare, il fatto che il brand molte volte sia sufficiente a darci una riconoscibilità sociale rispetto all'oggetto di lusso in quanto ricercato, in quanto alle sue spalle richiede un'elaborazione tipo culturale che non è facile avere. Non è che basta guardare un catalogo online e acquistare, bisogna avere le radici per riconoscere questa cosa. Ecco, c'è un motivo secondo te per cui persone come te oggi sono in crisi, quando in realtà ci sono frotte di persone che sarebbero felici di avere un prodotto che passa attraverso le mani di un antiquario da generazioni come te? Guardi, io sinceramente la risposta non posso averla, perché non sono Mago Merlino. Però direi che c'è un salto negli ultimi 20 anni, che proprio è venuta a mancare la voglia di, forse anche se tante volte si fa vedere sulle trasmissioni televisive o anche a livello di pubblicazioni di libri, è il web, che c'è tanta gente che è attratta dall'arte, ma secondo me è poca, cioè sono sempre quelli che poi fanno vedere. Perché un esempio, anni fa servimmo un cliente, gli proponemmo delle cose, degli oggetti meravigliosi che lui alcuni prese, e alla domanda: ma ha visto che bello, come sta bene, gli arredi così? Fa: sì? Ah sì, vabbè. Cioè, tu ti sei accorto in quel momento che il prodotto, l'oggetto che avevi tanto decantato, che gli avevi proposto, che gli avevi detto che sarebbe stata una cosa anche nel futuro apprezzata, perché un oggetto d'arte così non era tanto... E aveva capito quello che aveva preso, ma era uno status, cioè nel senso: io posso comprarlo, l'ho preso, però sinceramente non so che cosa ho comprato, però faccio vedere quello che abbiamo detto, caro mio. Il riscattarsi di un paese nasce anche da un profondo bisogno di trasferire, di condividere degli strumenti culturali che non si acquisiscono col caschetto elettronico dormendo la notte, come promettono certe pubblicità per apprendere le lingue. Che è un lavoro faticoso, lungo, costante, e molte volte non necessariamente ti porta a un prestigio sociale, perché ti guardano come tu fossi un alieno. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. 800240024, mentre Alessandro Chiappini si è spostato a Via Condotti, dietro allo sfondo Trinità dei Monti, potete vederlo dal sito di Radio 24, noi abbiamo possibilità di immediato spostamento dei nostri colleghi. Noi stiamo parlando naturalmente del mondo del lusso, del mercato del lusso, dell'eccellenza italiana nel creare materia prima dei sogni di chi si può permettere oggetti di lusso. Lo stiamo facendo con Nicoletta Pollamattiotto, direttore direttore di Autospendit, che è la rivista del lusso e lifestyle del gruppo 24 Ore, che oggi è in edicola con una nuova veste grafica, nuove rubriche, una piattaforma cross mediale e soprattutto ospita un dibattito di persone che stanno lavorando fortemente al rilancio del Made in Italy in questi settori e cercano di farci capire come sia fondamentale per il benessere di tutti crederci. Abbiamo molte telefonate, ho sentito soltanto un antiquario prima, dico ai nostri ascoltatori di chiamare all'800240024 per darci testimonianza di persone che lavorano nella fabbrica del bello, nella fabbrica di quello che con una lettura lievemente austero moralistica è il bello, il superfluo, ma in questo momento parliamo di bulloni, non parliamo di arte, non parliamo di moda, non parliamo di design, invece no, facciamo esattamente il contrario. Rita da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Io, pronto? Sì, l'ascolto, l'ascolto. Ah, benissimo, ecco, io potrei dire che sono inserita in quella ramo, diciamo, che produce questi prodotti, diciamo, di lusso, nel senso che dipingo sulla lana, sulla seta, quindi vestiti, foulard, quindi che hanno un certo costo, diciamo, già principalmente dal materiale, no? Quindi non si fa, cioè si fa molta fatica a far capire alle persone quando si dà un prodotto. La sento molto male però, la sento molto male Rita da Vicenza, o sia ferma o si sposti un po' perché se è in movimento la sento male. Ho capito, lei è una pittrice che decora seta, mi sembra, no? Sì, mi ferma, sono fermata. Ecco, brava, non ti muovi un minuto, chiedi troppo alla provvidenza. Ecco, stavo dicendo che io produco un prodotto che di base è costoso, nel senso che lavoro con la seta, con la lana, con il cashmere, quindi si fa fatica a far capire alle persone che se vogliono un prodotto artigiano, un pezzo unico, perché è dipinto a mano, c'è dietro una progettazione, uno studio. Però devo dire che alla fine, se si spiega bene, una parte di questo mercato lo capisce. Logicamente è un mercato d'eccellenza, perché purtroppo non tutti possono permetterselo, ma se mettiamo in conto le ore che una persona, come diceva prima la signora, spende e occupa per fare un singolo pezzo, non viene gratificato da quello che poi riceve come come vendita, no? Ecco, lo ma qual fa, è? Fammi capire, lo si Rita, fa anche qual per passione. Vorrei capire, sì, il punto di caduta, perché tutto sommato le persone ancora spendono, l'abbiamo visto, abbiamo riaperto i luoghi di divertimento perché era giusto dire che l'estate la gente non dovesse rinunciare a quello che era il giusto e lecito divertimento, le discoteche erano di nuovo piene, la gente è andata comunque a Ibiza, la gente comunque è andata in Sardegna, la gente comunque ha fatto le vacanze, quindi se vuoi ancora un pochino di margine ci sono per dedicarsi a qualcosa che non sia semplicemente la pura sopravvivenza. Ecco perché questo qualcosa in più, per chi se lo può permettere, è chiaro, non viene indirizzato più nella direzione di qualcosa che permanga nel dominio del bello assoluto e quindi sia anche un valore in cui investire, capito? Perché un cocktail sulla spiaggia è bello, dà euforia e tutto e fa lavorare l'imprenditore, ma poi finisce lì. Una seta dipinta da Rita di Vicenza probabilmente acquisisce anche valore nel tempo. Ma sicuramente sì, nel senso che io principalmente ragiono in questa maniera, nel senso che preferisco avere dei capi, pochi capi, ma che siano particolari, nel senso che non perdono mai di valore e soprattutto ti piacciono anche dopo 10 anni. Cioè io faccio così, ho dei capi che magari li pago un po' di più, però sia qualità, qualitativamente che come bellezza proprio del prodotto, non ti stanca mai, non ti stanca mai. Allora, nel, chiaro, mio Rita, caso, Rita. Io vedo, nel mio caso, sì. No, devo interromperti perché ho tantissime persone, lo fa parlare un po', sì, tutti. Certo. Mi è chiaro il tuo concetto, chiaro, tu hai fatto una scelta non da oggi e quindi persegui la tua direzione. Mirko da Sondrio, cosa fa Mirko? Pronto? Mirko, sì, cosa fa Mirko? Qual è la sua professione? Io lavoro come incisore di gioielleria. Come si dice, quindi sei un artigiano un artigiano nel settore dell'ufficio. Ecco, qual è il tipo di crisi che noti nel tuo stesso settore? Hai più difficoltà, vedi più difficoltà? È comunque un mercato che è rimasto vitale nonostante il Covid, nonostante tutto quello che stiamo attraversando? O anche te accusi questa mancanza di sensibilità verso questi settori del cosiddetto bello, superfluo, lusso? Premetto che il mio è un caso un po' particolare, perché io collaboro con una grossa ditta italiana di gioielleria e di Made in Italy. E quindi è il lavoro assicurato, te da parte sì, dal tuo punto di vista quindi, stai tranquillo. Il periodo del lockdown che ha colpito un po' tutti quanti, anche noi con la chiusura del laboratorio. Però da quel punto siamo tranquilli. Invece per quello che riguarda il contatto diretto con le persone, con la gente e così via, sicuramente questo periodo ha inciso, nel senso che abbiamo meno richiesta di questo genere di lavori da parte delle persone, meno voglia di spendere in questo senso, ma devo dire che comunque si inserisce in una crisi di domanda che già c'era, insomma. Allora sentiamo Nicoletta Polla Mattiotto, a cui ho fatto ascoltare. Come vedi, la prova è ci stanno chiamando persone che lavorano in maniera diretta nei settori più disparati della produzione di quello che noi stiamo dicendo. Qual è la tua impressione a sentire queste voci innanzitutto, che raramente si sentono, perché di solito c'è quasi un po' di pudore a far ascoltare persone che fanno gli incisori per gioielli o per oggetti di lusso, ecco. Sì, guarda, intanto grazie, secondo me è bello ascoltare queste persone e mi veniva appunto da pensare all'entusiasmo con cui anch'io vado, entro un po' in punta di piedi quando si vanno a vedere le manifatture. Io consiglierei a tutti, ci sono periodi dell'anno in cui le grandi manifatture, ovviamente delle grandi aziende che possono permettersi un'organizzazione di questo, vengono aperte, e davvero, lo dico con un po' di enfasi ma credendoci, sembra di entrare in una vecchia bottega rinascimentale. La manifattura proprio italiana classica di lavorazione è uno spettacolo da vedere, quindi se posso permettermi, al di là appunto delle singole voci, veramente vedere un incisore al lavoro, vedere un tintore al lavoro e vedere come ancora tante cose vengono fatte proprio a mano, ed è una questione di sensibilità delle dita, della sensibilità dell'occhio, è davvero ancora uno spettacolo, Nicoletta, la tradizionale catena di trasmissione tra generazioni di certi talenti, certi segreti, certe arti, si è interrotta o si è in qualche maniera articolata in maniera diversa rispetto alla tradizione? Una volta un mestiere si passava di padre in figlio, ecco, oggi con tutti i problemi di gestione dell'apprendistato, dei dipendenti, delle persone che stanno a bottega di un artigiano, ecco, c'è crisi in questo momento di passaggio, perché il rischio è poi si perdano certe qualità. Assolutamente, tocchi un tema delicatissimo e c'è crisi. Il problema vero è invece un problema oltre che di ordine economico, di ordine culturale, il sostegno ai giovani e il fatto che queste professioni diventino appetibili. Guarda, ne ragioniamo proprio su questo numero di autospendit. Se pensi che cosa è successo per il mondo degli chef, della cucina, se noi pensiamo 20 anni fa, proporre a un giovane di fare il cuoco era qualcosa in cui avrebbe visto, no, la fatica, la durezza, il fatto di lavorare quando tutti gli altri sono in vacanza e invece tu appunto a Natale durante le feste sei lì che lavori. Adesso non c'è un giovane lavoro che non voglia diventare il prestigio, chef. Scusami Nicoletta, è un lavoro che non dava il prestigio sociale, la visibilità. Oggi gli chef sono dei VIP, sono più visibili dei cantanti, degli attori e delle persone di spettacolo. 20 anni fa dice sì, mi mandi a fare il cuoco, avrebbero detto questo, se proprio non posso farne a meno, però non lo diciamo in giro perché magari non mi dà prestigio sociale. Oggi è esattamente l'opposto, figurati, avere un figlio chef sarebbe il più grande biglietto da visita per genitori che hanno voglia di frequentare la società che conta. Per cui io credo che davvero sia un lavoro culturale da fare, perché non deve essere altrettanto riconoscibile a livello sociale fare il pellettiere, fare il modellista, fare appunto l'incisore, sono professioni qualificate, sono professioni che richiedono una grossa formazione, sono anche professioni ben pagate, specie ovviamente quando si è all'interno di una struttura grande, ma c'è un grossissimo lavoro di visibilità e di riconoscibilità che va ancora fatto. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, ma non vogliamo essere soli. Sì, Nicoletta, devo dare la linea al traffico. Mi verrebbe da dire, e questo è argomento di riflessione tra un istante, perché ancora la televisione non si è inventata un reality o un talent show che richiami anche queste categorie, che sarebbe un'ottima idea. A tra poco. Melog 800 24 0024, mentre attendiamo le telefonate, ci stanno arrivando tantissime, e devo dire che il tema che abbiamo sfiorato oggi, su un'intuizione così casuale questa mattina, ho visto che c'era questa nuova versione della rivista Autospenditi, chiamo Nicoletta e parliamo di questo settore, perché non bisogna avere pudore di parlare delle cose belle. Beh, vi stanno arrivando tantissime telefonate nei settori più disparati della produzione del bello, quindi era un settore tutto sommato stava in penombra, nessuno se ne accorgeva, e l'idea che ho lanciato prima, mi scrive Nicoletta nella nostra chat, ci facciamolo noi reality, sì, è vero, un talent show con i modellisti, con chi fa la pelletteria, con chi fa l'orfo, sarebbe fantastico, ridarebbe, purtroppo serve questo mezzuccio di farlo diventare un evento televisivo, ridarebbe finalmente dignità e prestigio sociale alle persone che fanno i lavori fondamentali, importantissimo. Davide da Padova, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Ecco, io da 30 anni sono un artigiano che produce proprio questi tipi di accessori. Ed è un piacere lavorare per un motivo semplice. Che accessori produci? Dico che non ho capito bene. Cosa produci? Produco accessori per la moda e per l'alta moda. Fammi un esempio di accessori. Può essere la fibbia della calzatura, la borsa di chiusura della borsa, può essere la tracolla della borsa col charms, cioè tutti questi. Quindi sono quegli oggetti che danno il senso di esclusività a un prodotto di moda, e tu li fai te. Benissimo, la soddisfazione è sempre stata quella di vedere questi stilisti, noi lavoriamo da 30 anni con le aziende più importanti della moda italiana, questi stilisti che su un foglio di carta con la matita ti fanno questo schizzo e tu devi tramutare questo in un pezzo concreto, immaginando quello che loro si attendono e vedere poi nei loro volti questo pezzo realizzato dopo 5 giorni, 3, 10 e vederlo concretizzarsi sotto i loro occhi è una soddisfazione grande. Quello che volevo segnalare, e vi ringrazio per la trasmissione, è che in questa nostra Italia purtroppo questo lavoro è andato perdendo di valore, perché adesso queste grandi aziende non hanno più bisogno dello schizzo e dell'artigiano col pantografo, perché ci sono i file in 3D, che le stampanti 3D, loro fanno i loro prototipi, poi lo mandano in giro per il mondo e ti fanno di quegli oggetti che arrivano da tutte le parti del mondo, e noi abbiamo perso il nostro valore intrinseco, che è l'artigianalità. E credetemi bene, mia figlia lavora in una grande azienda a Londra come manager, anche in grandi marchi importano dai paesi più poveri ormai questi tipi di prodotto, perché la tecnologia si è talmente evoluta che basta un tecnico di alto profilo per far lavorare 20-30 persone e ti produce gli accessori come quelli che si facevano questo, in Italia. Questo è l'inarrestabile passo del progresso tecnologico, ma io penso che anche l'artigiano comunque sia debba adeguarsi, almeno capire e conoscere gli strumenti più raffinati che gli permettono comunque di far evolvere anche il suo lavoro, anche la sua opera. Io penso che alla base comunque c'è un prodotto dell'ingegno esclusivo, poi nella catena produttiva mi rendo conto che c'è chi riesce a invadere il mercato perché dalla parte sua mano d'opera a minor prezzo e assolutamente anche tecnologia avanzata. Silvano da Varese. Buongiorno a lei, dottor Nicoletti. Velocemente, qual è il tuo lavoro? Sì, velocissimo. Io ho investito dei soldi degli investitori su taglio di pietre preziose. Non abbiamo crisi di mercato, non abbiamo perdita di mercato. L'unica cosa che manca sono nuovi giovani che sappiano tagliare le pietre. Ecco, tu ci stai dando una notizia. Nel campo dei tagliatori di pietre preziose ci sarebbe lavoro, ma nessuno, non trovi persone che... Penso sia lavoro di grande responsabilità, perché se sbagli tagli una pietra butti via un diamante. Se sbagli una pietra ti butto fuori dall'azienda. Cioè no, ma lo copri di piume di pece, penso. Non trovi giovani che investano il loro tempo nel fare tagliatori di pietre? Non non c'è più quella bramosia di imparare un mestiere molto particolare, molto delicato, ma che dà grande soddisfazione quando vedi tipo un arabo che viene e ti vede non il solito taglio capuchon che tutti sappiamo fare, ma quello che tutti. Io non so farli, ho dei professionisti che li fanno per me, ma che veramente ti danno la soddisfazione di aver fatto una cosa unica e molto molto considerata. Allora, questo mi sembra un dato interessante. Ritorno a Nicoletta Polla Mattiot, direttore di Autospendit. Allora, Nicoletta, hai sentito? Guarda, potremmo continuare fino a domani a sentire persone. Come vedi, abbiamo toccato un punto nevralgico e molto poco, diciamo, interpellato anche dai nostri colleghi. Soprattutto questo del tagliatore di pietre che non trova apprendisti. Ti sembra una cosa possibile? Mi sembra possibile, è anche una cosa molto diffusa, guarda, non solo il tagliatore di pietra, ci sono alcune professioni nell'ambito della pelletteria dove appunto non si trovano sufficienti artigiani, tant'è vero che alcune delle più grosse aziende italiane stanno ormai facendosi le loro scuole interne per cercare di attirare giovani e per formarli. Certo è che ci va un sostegno in questo, non basta solo appunto di iniziativa privata per rispondere anche all'altro ascoltatore che appunto parlava delle difficoltà di sostenere l'artigianato. Sì, cambia la filiera di produzione, dice certo, è chiaro che con AutoCAD, un pantografo e della tecnologia 3D fanno il lavoro che facevo io in una settimana, in un minuto. Quello sì, però la personalizzazione di cui tutti parlano nel mondo del lusso è proprio il su misura, e quindi il valore della manualità non verrà mai sostituito. Quello che è certo è che ci va un forte sostegno alla filiera italiana nel suo complesso, perché è ovvio che ci sono dimensioni completamente diverse, per cui ci sono grandi aziende che anche in periodi di crisi possono sopportare mesi in cui si guadagna meno, piccolissime aziende che invece hanno bisogno di una continuità. Io credo che in questo l'industria della moda italiana nel suo complesso durante il periodo del lockdown abbia fatto tanto proprio per continuare a mantenere la filiera italiana, però ovvio che ci vuole un sostegno generale e ci vuole anche una strategia a livello paese per sostenere la filiera, ma non possiamo permetterci di farci sostituire da concorrenti stranieri su questo, perché è una tale specificità nostra che sarebbe veramente drammatico da un punto di vista occupazionale, ma sarebbe anche sciocco farsi, come dire, sottrarre qualcosa che fa parte del DNA italiano da generazioni. Allora, la trasmissione è finita, ringrazio Nicoletta Polla Mattiot, dico a tutti gli ascoltatori che stanno chiamando, che sono seriamente interessati alla sopravvivenza, al rilancio di questo settore, andatevi a vedere la rivista oggi Autospendit, che è nel Sole 24 Ore, perché un gruppo di esperti ad alto livello proprio di questo discute e su questi problemi sta dibattendo. Alla prossima. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.